anche se quest'anno non sono scesi, a cura di Bragini, era parata agli ingannarini a cura di Bragini. E si sa, succede così, dopo un po' di giorni arriva sempre l'acqua. Ma non l'acqua del continente, vogliamo l'acqua normale noi, se no... No, non le vogliamo, noi a quei difetti non le vogliamo, noi la vogliamo normale, magari per il piombo anche tutta la giornata, anche due giornate in seguito se vuole, però in maniera abbastanza ridotta, senza buttare l'acqua a catinelle dal cielo, no, così non va bene, ci mancherebbe altro, quello lì fa solo danno e basta. L'ho già fatto, non è stato necessario montare il vetrino manuale, sono nato come nuovo. E come hai fatto? Con lo straccetto ho imbevuto di quello per lavare i vetri, no? Poco. Un paio di gocce è tornato lucido, perché questa polvere, poi col ventilatore in funzione, il condizionatore si diffonde in una maniera pazzesca. Evidentemente l'umidità ambiente, non solo ambiente, perché si sa, c'è sempre un po' di condensa in tutti gli ambienti, no? Soprattutto quando fa tutto questo caldo così, e magari si deposita e uno non se ne rende conto. Adesso l'hai pulito e va bene così, non c'è problema. Insomma non è poco, come le stazionarie sono più che bene, sono andate più in ordine. Sì. Tu ne hai 28, io ne ho 29 qua, 29, vabbè dai, comunque si sa, ancora è tempo caldo e per cui non è quello il problema è il virus, speriamo che finisca presto, adesso eravamo tranquilli, no? Sono arrivati i turisti che ci hanno contaminato di nuovo, porca miseria. Ma lo sai, è anche un problema di questo virus, è soprattutto un problema di persone. Se loro non capiscono che non ci sono solo i soldi, è perché al virus dei soldi non ne frega niente, capito? Quello cammina e basta, chi prova, ha sentito quanti danni si fa all'organismo ai polmoni. Anche uno che non ha fumato si ritrova con i polmoni distrutti da questo impiatto, perché non è che te la prendi e finisce, è vero che non c'è sintomi, però i segni te li lascia, quindi proprio respirare è la cosa più importante, perché prende tutti gli organi fuori. Ma vado a farglielo capire a certa gente. Troppa gente incosciente, c'è cioè, che preferisce il divertimento e il dio denaro soprattutto alla salute, non è così che deve funzionare. Hai visto anche quel briatore, quel deficiente lì, per me è un deficiente che non fa altro che criticare la Sardegna, ma non da adesso, da anni ci prende per pecorai, ci prende. Quando lui qua è venuto e si è fatto loro, si è fatto in Sardegna. Sono tutti questi VIP che hanno contaminato di nuovo la Sardegna, perché in realtà sardi e contagiati ce n'è qualcuno, non più di tanto. Da quando sono venuti che hanno aperto le discoteche, eccetera, ecco che hanno ribaltato tutta la situazione. Speriamo che finisca presto. Per adesso mi pare che non finisca tanto presto, perché se ci pensi un attimino, questa affare c'era già da dicembre, a fine dicembre dell'anno scorso, adesso siamo già a fine agosto, quindi non c'è traccia di virus, ma di vaccino, e anche quando c'è il vaccino comunque penso che non è che possa fare miracoli come tutti i vaccini, quindi è un disastro molto molto molto molto serio, ma soprattutto per colpa degli imbecilli che ci sono in Italia e all'estero. Sì, infatti, proprio per colpa degli imbecilli, è vero. Adesso io sto pensando, appena che riaprono le scuole, chissà che cosa succederà. La mascherina per i bambini di 6-7 anni, ma dimmi tu, se il bambino si tiene tutto il giorno la mascherina, a parte il fatto che magari esce da casa con la mascherina e non fa in tempo ad arrivare a scuola, che l'avrà già distrutto, sicuramente. Per cui speriamo che non succeda il peggio, e chi lo sa, perché sennò è un problema veramente, perché adesso si sta diffondendo anche non solo fra i giovani, ma anche fra i bambini. Più di uno se l'ha preso il coronavirus, anche i bambini in tenerissima età. Vai. Secondo me la razza umana proprio che non capisce. Quindi capendo tutti questi fatti che sono successi, ti viene in mente proprio la storia dell'uomo. Gesù Cristo è sceso in terra per dire agli uomini come comportarsi, è stato messo in croce e di lì ha detto proprio la frase più attinente alla razza umana: perdonali perché veramente non sanno quello che fanno. In effetti l'umanità non sa quello che fa, perché c'è quello là, quello brasiliano, quel presidente asino, che continua a bruciare. Gli hanno detto in tutte le salse, mica poi non c'è rimedio. Da quest'anno abbiamo già iniziato a consumare più di quello che la terra produce, quindi è più imbecille di così. La situazione non è certamente bella, ma sotto tutti gli aspetti, sia della salute, dell'economia soprattutto, perché se continuiamo così, hai visto quanti disoccupati ci sono stati a causa di questo coronavirus, la nazione non so fino a che punto può reggere. Se non si lavora, se non si produce, chiaramente le risorse mancano, cominciano a mancare. Pertanto la gente dovrebbe cercare di capire e di essere un pochino più educati e soprattutto rispettosi, non solo per se stessi, ma soprattutto per gli altri. Tu immaginati questi giovani che vanno adesso in discoteca lì a fare la notte da ballo, eccetera, arrivano a casa, magari contagiano anche i familiari, i genitori, magari anziani. Io dico, dov'è il buon senso di certe persone? No, non le capisco proprio, non lo capisco proprio. Ma comunque, staremo a vedere, speriamo che la gente riesca ad arrivare a capire che non ci si deve comportare in quel modo. Ci credo poco, visto i precedenti. Si sta verificando proprio l'ipotesi peggiore, perché tutto questo non è che non lo sapessero, era tutto previsto. Il virus è stato solo un contrattempo di quello che deve succedere, però già da anni ci sono dei rapporti, tu lo sai che gli americani sono fissati, no? Con le provisioni, e già da anni la CIA e l'NSA avevano fatto dei documenti che poi hanno decrittato, che dicevano che avremmo avuto grandi problemi con i flussi migratori, grandi periodi di siccità enorme e poi anche guerre, perché come ti ho detto già da quest'anno le risorse non basteranno per tutti, e quello vuol dire che in termini sia d'agricoltura sia di materie prime andremo in rosso, quindi si può immaginare cosa può succedere, e quindi si tenderà sempre più a sfruttare i paesi che hanno le risorse anche a costo di fare le guerre, come è sempre stato. E buonanotte, e sarà l'inizio della fine, se non esce fuori veramente qualche saggio che ci abbia il cervello attaccato. chi lo sa, speriamo bene. Purtroppo è così, purtroppo è veramente così, ma qualcuno l'aveva previsto che sarebbe successo così col passare degli anni, un po' di disordine a livello sanitario, a livello economico, di economia, eccetera, eccetera, e tutto questo si sta verificando, si sta verificando, purtroppo, ma cosa vuoi dire? Io ormai ho una certa età, per cui non so, tra un bel po' di anni che cosa succederà, come potranno vivere i giovani di oggi, no? Non riesco ad immaginarmelo, continuando di questo passo sicuramente non certamente bene, se si continua così. Purtroppo sarà tosta, ma vediamo un po'. Anch'io sono abbastanza grande, quindi non so se continuerò a vederle queste cose, quindi non lo so, solo che le cose stanno già succedendo e quindi le stai già vedendo, e questo che ti porta un po' a essere meravigliato, perché così in fretta non se l'aspettava nessuno che capitassero queste cose. Vediamo un po'. E appunto, considerando la piega che sta prendendo appunto la vita di oggi, c'è da pensare un pochino anche al fatto, ma chissà che vita vivranno i giovani del futuro, perché continuando così non mi sembra che sia tanto rosea la situazione. E vabbè, sì, vabbè, tu anche tu sei grande, ma non certo come me, io ne ho già 78, mio. E dunque sono vicino all'ottantina, per cui non lo so quanto tempo mi può rimanere ancora, spero tanto, spero, ma questo non lo so io, nessuno lo può sapere, per cui vedremo. Sono rientrato, allora come siamo messi qua? Vediamo un po'. E vai, bollone. E beh, tapparella. Sei messo bene qua, sei messo bene. Modulazione, la solita. Sì. Solita modulazione, solito attacco, solito tutto, va benissimo. Svegliato che sei, Tony. Sempre fuori frequenza sono qua. No, con l'altra radio sì. Sì. Adesso però ho fatto una modifica e ti sento bene, dai, non ci sono problemi. Ok. Quindi questa è la mia solita radio? Sì, ma chi era? Luca era Tonino. Tonino, Luca, tu sei? Sì, sono io giù. Ok, no, sta andando bene Luca, no, non c'è problema. Sta andando benissimo, alla grande. C'è anche Gianfranco, avanti Gianfranco per Luca e Claudio. Sì, ciao Luca, buonasera. Ma è sempre lo stesso, sì? Sì, ho fatto una modifica all'interno perché in pratica non mi accettava il coso, quindi ho attaccato il cavetto USB, non mi accettava il cambio di microfono, capito? Adesso invece va bene sia in uno che nell'altro, questo è l'MC60 e va bene. Se mi dite che va bene, va bene. Per me va bene, altro non ti posso dire. Alla grandine va benissimo. Ok, quindi sempre la mia modulazione, dai, il microfono è sempre lo stesso, quindi no, non penso ci siano molte differenze, così è Giulio. No, non c'è differenza per niente, è quella, è la tua modulazione, e va benissimo, non c'è problema qua, va più che bene, anzi, più che bene. Vai già fra. Comunque volevo salutare anche Gianfranco, se mi ascolta, mi ascolti, sì? Sì, abbastanza forte, non c'è problema. Ah, ok, la persona non mi sentivi, va bene, tu arrivi fortissimo lo stesso, Claudio, Idem, Giulio, lo stesso, tutti senti a bomba, là. Sì, io ti sento benissimo, Luca, a Puglia. Come, in che condizioni sei? Sempre con quel famoso stilo della cosa, della Matova 5? Sì, sì, microfono normale, come baracchino sto usando il Typhoon. Va benissimo, Luca, va benissimo. Non bene, no, benissimo, veramente. È una bella radio. Insomma, la tua solita radio, quella di sempre, quella che mi è sempre piaciuta, insomma, ecco. Ultimamente bene. Avanti, qua. Ehi, va bene. Ok, dai, quindi Gianfranco, stavo dicendo che, appunto, non mi accettava il cambio di microfono, quindi... c'è mia figlia che se ne intende di computer, ho attaccato il cavo USB dietro e tramite il computer ho abbassato ho sollevato il, come si chiama, praticamente la parte microfonica, la parte del mic gain, capito? Sì, io sto cercando un buco invece non lo trovo, che strano. Mamma mia, questo è talmente, i buchi si trovano. I buchi, ormai i buchi non si trovano più. Va bene, no, mi sto ascoltando, veramente è bella la modulazione, Giulio. Sì, è bella, è bellissima. Praticamente adesso l'hai equalizzata praticamente la modulazione, dai, col computer. Sì, c'è un menu molto tosto al radio, avete ragione Gianfranco, ce l'ha anche Gianfranco. Però il modello più avanzato di questa, ma sono delle radio molto molto molto professionali, dove in pratica non hai niente da poter muoverti così, devi fare tutto via computer, capito? È molto bella, molto bella. Questo è un Barrett 950, se vai a vederlo c'è il sito, dice trasmettitori Barrett, costava un pacco di soldi, ho visto già fra un pacco di soldi costava, adesso costa un po' meno. Va bene, e quindi sono riuscito a darle quella leggera preamplificazione che ci vuole per farlo andare bene, insomma, come ti ho detto poc'anzi, doveva uscire come dico io, non come dice lui, quindi ci metti il gubbio porto reddo e allora siamo riusciti. Molto bene, in cambio per Luca è a girare a chi tocca. Comunque buonasera a tutti e sono rientrato adesso. Luca? Luca si è sentato? Sì, va benissimo qua. Ma io me l'ho immaginata, infatti poc'anzi siamo passati per fare delle prove sul canale 15, anche per sentire, vedere come andava la banda laterale, eccetera. Ma infatti gliel'ho anche detto a Gianfranco, io a Claudio lo conosco, fin quando non raggiunge la sua perfezione, quella che piace a lui, no? non è contento e non molla, e così è stato. Già ti conosco ormai, ti conosco tantissimi anni qua, per cui figurati un poco. E vabbè, meglio così comunque, dai, avanti Gianfranco. Sì, è meglio così. Un attimino, perché io sto cercando uno spinotto da dietro l'apparecchio, ma non riesco a trovare. Una volta che lo togli, poi è un disastro, poi rimetto diversi affari. Poi sono sempre più piccoli. Mi ho trovato, cercando una cosa, ne ho trovato un'altra. C'è anche il buco per il coso, come si chiama. Vabbè. Adesso devo collegare, se non esplode tutto, un coso, uno spinotto. Un attimino, riprendete pure. Frattempo Gianfra, stai mollando quel connettore, quello che c'è dietro, perché tra poco faccio l'anno io. Ok, va bene, dai. Avanti Giulio, riprendi. Ok. Sì, ti stavo dicendo stasera, forse non mi avevi capito, che il cavetto adattatore, dai, da una radio, per dire, da un K a un Incom, eccetera, è in grado di farli anche Luca, che mi ha mandato la foto che ha appunto fatto quella modifica all'attrezzatura adatta, e per cui questo va bene. Va bene sapere certe cose, perché mancano troppe cose qui in Sardegna, o meglio a Sassari. Perciò se c'è qualcuno che riesce a fare certi adattamenti, ben venga, no, qua. Glielo credo, ben venga, sì, ben venga, va bene, va bene. No, io ce li ho, gli adattatori ce li ho, mi mancano quelli chiaramente per usare i microfoni ZG, Turner con i K, con l'ICO, ma non mi interessa. Però gli adattatori per giostrare tra ICO e Kevo degli ISO, quelli ce li ho, capito? Io posso usare adesso, ad esempio, questo ha l'attacco 8, quindi è senza adattatore, ha l'attacco 8 il Barrett, quindi va bene così. Però l'altro ho dovuto mettere l'adattatore, ma ce l'ho da ICOM a IAESO, da IAESO a ICOM, da Kevo da ICOM, quelli ce li ho tutti, e ce li ho da anni, mi avevo fatti tutti, ti ricordi, Massimiliano Archimede, capito? Mi aveva fatti lui. Va bene. Chi è che c'è rimasto qua, quindi? Noi due, basta, non c'è altro nessuno. Solo noi due siamo rimasti, perché Gianfranco è in quel rinchiusi per un attimo, per cui ci siamo solo noi due. Eia. Va bene. Allora, questo, quindi, guarda, non devo toccare proprio più niente, lascio stare così e siamo a posto. Quindi così è con l'inserimento in e va bene. E così è out e va bene lo stesso, però lo lasciamo in posizione in, eccolo qua, così, MC60, va bene, e quindi io spero che cambi il tempo, perché così non si può più andare avanti, troppo caldo c'è Giulio, io soffro tantissimo il caldo. 29 gradi in questo momento qua, sono tanti, 29 gradi. Però lo si può stare sempre con la cosa, col condizionatore acceso, invece di vaderlo, non è possibile. Anche perché fa male, poi specialmente a me che mi prende subito alla gola, poi è meglio, sì, magari ogni tanto l'attacchi, lo fai rinfrescare un pochino, però poi bisogna staccarlo, perché sennò ti frega, ti frega con questo problema che ogni tanto, questo abbassamento di voce che ho, ma comunque, andare, cosa vuoi dire, tiriamo avanti, dai, la vecchiaia è vecchiaia, non usava. Sì, scusate Giuda, che stavo controllando un telefono, là. Telefono che mi hanno dato e stavo guardando un po' le suonerie e queste cose. Ok, Lu, va bene, lavora, se c'è da lavorare, sempre meglio del baracchino, no? Ci sono dubbi, o Luca, Ian Griglia, quando si lavora si fanno soldi, perciò è meglio lasciare perdere il baracchino e dedicarsi di più al lavoro, fin quando c'è, e poi si può usare anche il baracchino, perché no? Va bene così, sicuramente Claudio al telefono, Claudio? Infatti, no, vabbè, non è un lavoro, me l'hanno dato, lo stavo controllando così, niente di particolare. Oggi è giovedì, giusto? Se non sbaglio. Sì, oggi è giovedì, ne abbiamo 27 se ricordo bene, per cui è già quasi finita il mese di agosto e stiamo arrivando a settembre, se Dio vuole. Speriamo bene che tutto proceda per il meglio, non come è successo in questa settimana, che ci hanno surcollassato a contagi, per carità, vabbè, dai, comunque, speriamo bene. Ricchi non vogliono rinunciare al Dio denaro e soprattutto ai divertimenti, e la Burbero si lamenta quando si incolpano addirittura lui, capita, lui deve incolpare, brutto imbecille, dice obbligatorio, se l'avesse potuto prendere a schiaffi l'avrei preso a schiaffi, figurati. Sì, ma lui si è viziato, ma per carità, comunque lui è ricoverato, anche la compagna in pediatria. E allora, sono tutti nel suo locale, 58 mi sembra che sono contagiate, si può immaginare, chi su è esiliato, chi su è currodone, e anche Google sì, sicuramente, perché con quella donna o con quella moglie giovane che ha, Edova 70 anni, si può immaginare, chi su è currodone e buco con Luca. Sì, ma la compagna è ricoverata in pediatria. Vabbè, appunto, ma anche se è giovane il contagio se lo prende, adesso non lo so per quale motivo, però anche i giovani, visto che ormai si sta diffondendo il virus anche fra i giovani, anzi di tanto in tanto anche proprio fra i bambini. Speriamo bene adesso che aprono le scuole al mese entrante e non succeda un casotto del diavolo, perché non credo che i bambini possano stare composti. Ui, ma dai, io non lo so fino a che punto, avendo figli piccolini o figli anche più grandetti, a mandarli a scuola non è molto prudente secondo me, però visto che le scuole aprono ci devi andare, ma sarà molto ma molto molto pericoloso, molto però. Purtroppo sì Giulio, molto pericoloso, vabbè, la gente si diverte però non sa che è a rischio, ecco. È a rischio. Vediamo un po' se Claudio è rientrato, ci sei Cla? Sicuramente al telefono, sicuramente così. Sì, io ho Luca, la gente si vuole divertire, d'accordo, sarà pure un diritto anche quello, però in certe situazioni il divertimento lo devi mettere da parte, lasciarlo perdere, perché se non ci andavi quest'anno in ferie a Porto Cervo, ci andavi al prossimo anno, quando la situazione sarà più tranquilla. Invece no, sono andati a fare macchie, sono andati e ci hanno inquinato di nuovo la Sardegna, questi bastardi. E poi hanno il coraggio, certi personaggi, tipo Ubriatore, andare a criticare i sardi, perché dice che li abbiamo contagiati noi. Noi li abbiamo contagiati, siete voi che li avete portato qua, i contagi. Brunito di Grazia, dove non si altro, questo è un deficiente, grazie, che ce l'ha di vizio, che critica sempre i sardi. Quando lui qua in Sardegna se ne ha tolto la fame, se ne ha tolto. Se ne ha tolto, sta togliendo tuttora. Appunto. Poi dicono il turismo in Sardegna, ci vuole il turismo, sì. E chi è che gode del turismo in Sardegna? E gli italiani che vengono da Vula, perché intanto i soldi che spendono qua, che consumano qua, poi se li portano al continente, sono tutti gli altri continentali, questi che hanno le grandi locali, per cui qui al massimo ci può essere qualche lavapiatti che può fare la stagione, ma niente di più, perché si portano anche il personale da fuori, questi magnacci. Scusate che se mi avete chiamato, che è arrivata gente al cancello, quindi sono dovuto andare a aprire. Sì che ti abbiamo chiamato, ma abbiamo immaginato che eri occupato, dunque non c'è problema. Capito Luca? Purtroppo sì, mio amico di Claudio è il Briatore, vero Cla? Amico vero, guarda, lo odio io per la persona, non perché mi ha più di meno, perché è una persona viscida, mangia bambini. È un cornutore, ma di schifo, c'è da arrestarlo solo per qualche brutto, con quei capelli che mi male un calamaggio, mi male, con quella barba incolta, perché uno può anche avere piacere di portare la barba, però la barba uno se la deve anche curare, no a tipo Barbone, a carità, lui con i soldi che ha, d'accordo, tutto quello che vuoi, ne ha tanti, senz'altro, però è un maleducato nel senso della parola, perché ha criticato la Puglia, ha criticato tutto il sud Italia, ha criticato la Sardegna, noi ci sta criticando da anni, che ci prende sempre per pecorai. Quando il pecorai a lui, ragazzi, se lo possono prendere a schiaffi e a carcere sedere e mandarlo a Milano, ho spedito senza bisogno di prendere nemmeno l'aereo e tantomeno la nave. E si conferma. Allora vi chiedo un'ultima cortesia, cambio radio, metto il baracchino perché ho cambiato i microfoni, quindi voglio sapere se va tutto bene anche col baracchino, ok? Che non le posso usare sempre questo, devo usare il baracchino qua. Ok, un attimino. D'accordo, prova, cambia. Avanti Luca. Avanti, forte e chiasso. Rimane la mortata, lui viene di 11 anni proprio. Gianni, avanti pulire la portante, dopo la portiamo anche a me e anche a Luca, e adesso ti hanno rimesso la portante. Come mai? Non te l'hai mai tolta l'antenna della macchina? Quella antenna, per portarti, vera? Ho capito. E vabbè, dai, fai da bravo, portantista, fai da bravo. Geniale, Giulio. Guarda, in questo ultimo passaggio mi sei arrivato, Santiago 8, mi sei arrivato, e la radio è buona, non è molto forte, ma è abbastanza pulita, chiara. Ho capito, è un po' oscillante, sai che io non c'ho antenna. Oh, mi sentite? Sì. Forse ero io a mantenere la portante, non stavo uscendo il microfono, per quello che ho detto, datemi un controllo. Va bene così come ha regolato? Va benissimo, va benissimo. Quindi non lo tocco, anche la tonalità, Luca, va bene, non è metallica, no? Ah, sarà così. E beh, già, funziona bene come baracchino, sì, a posto? Però mi intendi più a me. Oh, lo sai che quella famosa cosa che mi avevi detto a riguardo dell'alimentatore, switching, la ventola, eccetera, ti ricordi? L'avevo fatto quel lavoretto, ci avevo messo la resistenza e ho abbassato i giri e dunque è abbastanza più silenzioso, insomma, dai. Adesso si può anche accettare così com'è. Non so se si sente il rumore in fondo, sicuramente si sentirà ugualmente, però non forte come prima, Ocla. Vai. Io per verità non sento niente, pensavo avessi addirittura cambiato l'alimentatore. Sì, l'ho fatto anche io, quindi se te l'ho detto fallo, è un lavoro fatto bene, capito? La resistenza è diminuisci la velocità della ventola con un interruttorino, va bene, io addirittura l'ho messa con un potenziometro, quindi dietro, figurati. Va bene, allora lascio così anche questo microfono, perché questo è l'MB più 5 che avevo toccato per provare ad adattare al Barrett 950, invece non ci sono riuscito, allora l'ho rimesso sul baracchino. Va bene così? Sì, va bene, non c'è problema. Avanti Luca. Va benissimo, non bene, benissimo. K. Allora, col baracchino sì, Santiago 7. Ehi, va bene. Ottimo per la truppa. Ciao raga, va, la radio buona, Alla grande. Vabbè, visto, senza buchi, senza attacca tutti i sigari e cose, senza attacca niente. Già va bene, già va bene. Dimmi una cosa, a comportarti neanche l'antenna esterna si può attaccare? Sì, con l'antenna esterna sta andando allora. Ecco, l'antenna esterna sta andando, l'antenna della macchina. La cos'è? La magnetica, Gianni? Sì, con la magnetica, colina che c'ho che si alza, tipo quella della radio, così. C'avevo quella di SOS che c'avevo io, ma l'antenna l'ho venduto, ma l'antenna me l'ho tenuta, l'antenna mi piace. Ho capito, sì, no, già va bene, sì, la radio è anche buona. Va bene anche la radio, già. Non so adesso se quanto sia lontano da dove sono io, però diciamo io ti ascolto abbastanza bene. Va bene, che prendi Luca? Io lo sento basta già. Secondo dove si trova, è chiaro, no, io vabbè, io ho l'antenna più performante della tua, o Luca, sarà per quello sicuramente. Già, lo sento abbastanza bene, non c'è problema. Avanti qua. Questo passaggio si è arrivato a Santiago 9 già, non so dove sei, Santiago 9 si è arrivato. Non ero io Claudio. Ha risposto a Giulio, Santiago 9 si è arrivato, passaggio precedente, dai. Ah sì, Santiago 9. Però a me ogni tanto mi può fare la radio, non so se sia qualche portante o se sia qualche falso contatto. Non lo so, portante non te ne stanno mettendo, sei pulitissimo. Sì, adesso io, nonostante che mi sei arrivato più basso di segnale, ma ti ho sentito ugualmente già. Più basso anche nel radio, chiaramente, però ti ho sentito. Pensa, mi sei arrivato in quest'ultimo passaggio, Santiago 2. Nonostante tutto, ti ho capito benissimo quello che hai detto. Va bene, avanti Luca. Gianni, mi senti? Ehi, a chi è che mi ha chiamato, Cosa qua? Gianni, vabbè, anche io ho cambiato radio, sto usando nuovamente il Barrett col 60. Va bene, sentito Gianni? No, non lo sento. Gianni, è corrosivo, non è la solita postazione. Secondo dove sei tu, Gianni, è chiaro che non riesci a sentirci, perché l'antenna lo sai come ce l'ha, no? Come non mi senti, Luca? Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Non ti risponde, vuol dire non ti sente. Confermi, Luca, non l'hai sentito? Mi ha detto si assenta, poi se non intende. No, io sono qua, Clara, no, non lo sento, niente, dov'è? Non lo so, che zona sei, Gianni? Perché dobbiamo attaggiarne ora? Attento, Gianni, doppio russo. Dove sei? Ti abbiamo chiesto. Boh, adesso non lo sento nemmeno io. Si vede che si è allontanato. Non lo sento. Forse è al telefono, non lo so. Può darsi anche, può darsi. Vabbè, dai. Ma magari può darsi che sia in zona d'ombra, essendo così con la magnetica e dunque non magari non riesce a farsi ascoltare. Gianni? No, stavo cambiando la posizione del PL, perché posso attaccarlo sia al filo che alla parte superiore, voglio vedere dove rende meglio, dai, o se cambia qualcosa, non lo so, voglio vedere quello, perché come regolarmi se metterlo da una parte o dall'altra, perché c'ho il filo che fa una biforcazione, uno l'alimentazione e l'altro è quello dell'antenna, dai, per attaccare l'antenna per intenderci, oppure lo posso attaccare con il riduttore da sopra dove c'è l'attacco dell'antenna dell'apparato, dai. Ho capito. Vabbè, ma appunto siccome ti abbiamo chiesto, siccome non ti senti Luca, ti abbiamo chiesto in che zona ti trovi, solo per quello, per quel motivo lì, perché Luca non ti sente. Io sono a Luna e Sole adesso, sono a Quadrato. Ho capito. Luca, l'hai sentito adesso? No, non lo sento per niente giù. Ha detto che si trova al Quadrato. Evidentemente nei tuoi confronti non è in una posizione ideale. Sarà per quello, Luca, sarà per quello, senz'altro. No, non ti sente Luca o Gianni, assolutamente, non ti sente ancora. Avanti, Cla. No, da lì già, come mi arrivi? E adesso io devo andare, sto andando da Busato. Mi dico un attimo. Vediamo un po' se mi ascolta. Il quartiere mandò 9 più 10 dal quadrato Terra. Cosa vuoi di più? Cioè, no, non è che sei dietro l'angolo, E adesso mi sono allontanato, sto andando verso via Vedante, quella zona. Sei sceso a 9, 9, 5, va bene con l'antenna, non è che devi perdere un'altra. Io ti ascolto benissimo da grande, non fare affidamento su di Luca che antenna non ne ha. Oh, non è così Giulio, se fa affidamento su di Luca antenna non ha, è Santiago 8 qua, tu sei in macchina con l'antenna piccolina, sei 9, 9, 10. Infatti è quello, il problema è quello, essendo così in quella condizione è chiaro che non, no. No, a noi magari ci sente bene e sentiamo anche bene a lui. Con quell'antenna lì è già troppo che sta uscendo con questo silo così fatto alla bella meglio e piazzato così com'è. Luca, sempre sulla ringhiera, sulla finestra. Sì, sul terrazzo. A voi, sta andando anche troppo bene, Luca. Per essere messa così in quella condizione, va anche troppo bene. Perlomeno io ti sento molto bene con una radio fortissima, per cui va bene. Bene. Se prendi Claudio. No, non mi stavo detto la poc'anzi, io già. Ecco l'antenna con lo stilo della Mantova, messa nel terrazzo dove sai, no? Non è a casa sua, a casa della madre, diciamo, dai. Già mi hai capito. Ed è per quello che magari non ti ascolta. Tu con l'antennino piccolino, lui in quella condizione lì, e allora è chiaro che la ricezione può anche mancare, no? Tutto lì. Riprendi Luca. Via. Insomma, la zona è quella che è. Magari ci sarà anche il palazzo verso lui, verso Gianni che ti copre o Luca, sarà anche quello. E tutto influisce, glielo gridi, ma no, capita, sarebbe sarebbe bello risolvere il problema così in 448 con una cosa così fatta alla bella meglio, perché si può considerare che un'antenna alla bella meglio quella che hai piazzato, perciò le prendi qua. Infatti ho detto non fare affidamento su di Lucca perché non c'è antenna, si arrivano più forte tutta la macchina, quindi ti ripeto, qua il segnale oscilla da 7 a 8 a 9, si è arrivato anche 9 più 10, quindi penso che non ci siano problemi. Adesso sono in Viale Dante, come mi stai ascoltando? Santiago 9. E allora va bene, dai. Questa antenna sparami, c'ha il filo fino, ma va bene. Io già la conosco, ce l'ho anche io un'antenna così piccolina, però è VU, capito? La base magnetica così piccolina, col filo sottile e il connettore BNC. Vanno molto bene, sono antenne di emergenza, ma vanno bene, io ti ripeto. Non buttare via altri soldi, poi i soldi sono tutti come voi, però quell'antenna va molto bene. È piccolina, ma io ti sento benissimo, sai dove sono, non sono Sassari, quindi va più che bene. Vai Giulia. Ok, infatti, essendo così piccolina, praticamente è un'antenna da un ottavo d'onda, non è nemmeno un quarto d'onda, è un ottavo d'onda, per cui è già molto quello che riesce a fare. Va bene già, anche nel tuo passaggio ti ho sentito abbastanza bene, non c'è problema. Vai Luca. C'è cosa fa il gatto, bro? Mi sta mandando troppo caldo, c'è un dissipatore allucinante, perché è una radio da 200 watt, c'è un calore mi mandendi, adesso la spengo e mi accendo il baracchino, che così, se no, mi rende un'aria a gatto la faccia, allucinante. Beh, sicuramente sì, c'è un dissipatore così, vuol dire che come temperatura raggiunge abbastanza gradi, per cui è ovvio. E vabbè, comunque è ottima, va benissimo, ha una bella radio, molto, molto performante, veramente bella. Si prende Gianni, dove sei adesso? Adesso mi sei arrivato abbastanza basso già, forse Claudio ti ha sentito meglio, però non so se stava cambiando radio. Avanti già, avanti qua. Registrato il back? No, già fatto, c'ho il commutatore d'antenna. Sono con il baracchino e il 747 agganciato, dai. Registrato il break, avanti, buonasera. Io ti ricevo forte e chiaro, non ci stanno problemi dopo grigio. Buonasera, ben ascoltato. Avanti Giulio. Ok, ciao Nicola, Santiago 5, è radio accettabile, dai. Bassina ma accettabile. Va bene. Con l'antennino già, diciamo che già il suo lavoro già lo sta facendo, dai. Anche se chiaramente se pensi di migliorare è ancora meglio. C'è anche Gianni in macchina però Avanti Gianni. Forse te stavo andando a Fuggiaro, boh. Arrivi bene Nicola, anch'io, segnale 4-5, la radio è buona, dai. Avanti Luca. Ehi Alà, io in questo passaggio vi saluto perché poi dobbiamo cenare, dobbiamo uscire, là. Ciao Claudio, ciao Giulio, ciao anche a Lupo Grigio se mi ascolta, a Gianni, a tutti, dai, alla prossima, ciao, riprendi qua. Ciao Luca, alle prossime, dai, ci riascoltiamo, stai bene, cordialità e saluti a te a Marina, vai giù. Ok, ciao Luca, alle prossime, dai, grazie per la piccola chiacchierata, ci sentiamo alle prossime eventualmente. Avanti Nicola. Cala, salutami anche Anna, da parte mia, alla prossima, ciao, ripeto, ciao. Ciao. Ma c'è l'antenna della macchina a casa, Nico? Arrivi anche qua, io sono più lontano di Giulio. Arrivi anche qua, arrivi benissimo, segnale 4-5, la radio è buona, dai. Giulio, riprendi che io intanto inizio a prepararmi perché devo preparare il mangiare al cane. Ok, qua, sì, in effetti. Infatti, te lo volevo ricordare perché ho visto stamattina che quando non si è accorto dell'orario, perché a quest'ora solitamente lui deve accudire il cane per prepararlo, eccetera, eccetera. Sì, va bene, qua, no, non c'è problema. Sì, adesso riesco a sentirti, o Nico, non è forte, ripeto, Santiago 5, è la radio all'incirca 3 di radio, però finché dura così pulita la frequenza senza QRM, problemi non ce ne stanno, ti sento e basta, e mi va bene così, riprendi, dico. No, adesso ti sei abbassato sia di segnale che di radio, adesso sei Santiago 3,5, era meglio prima, nella posizione dove l'avevi messa prima, era Santiago 5. No, non sei come prima, sei Santiago 4 adesso, sì, hai perso un punto S, hai perso, per cui anche di radio hai perso, per cui andava meglio prima. Risposta da dove era prima, proprio al centro dove avevi detto. Adesso ti sento come prima, adesso è uguale, adesso è Santiago 5, sicché ricordati bene la posizione dove l'hai messa e la devi tenere lì, perché se no poi faccio fatica ad ascoltarti. Certo che parlo, ma è normale, è normalissimo. Purtroppo la radiofrequenza è così, basta un minimo ostacolo che purtroppo non si riesce ad ascoltarsi. E io ripeto, se tu mi dai retta, come ti avevo detto l'altro giorno, fai un'applicazione a metterla fuori, proprio fuori dal davanzale della finestra, con una piccola sbarra così, e con una piastra in ferro, e questa piastra in ferro facendo un buco al centro, la metti fissa lì, intanto nella finestra non ti dà fastidio, non dà fastidio nemmeno se c'è qualche altro inquilino o il piano più superiore, e va benissimo. Sono sicuro che miglioreresti ancora come segnale e anche come radio, chiaramente. Dico, nonostante che sia la portante, con un bel segnale anche, e con un fischio, ti ho sentito in parte quello che ha detto, purtroppo ha messo la portante. Vedi, ecco per quale motivo serve mettere l'antenna nella maniera migliore possibile, proprio per ovviare a certe cose, magari se c'è qualcuno che vuol fare il dispetto magari non riesce a farlo, ma tutto questo sempre con un'antenna esterna lo puoi fare, se no ci saranno sempre dei problemi quando interviene qualcuno con la portante, come ha fatto adesso. Vai, Enrico. Ce eravamo io, tu e Claudio, solo che Luca ha dovuto chiudere perché anche lui aveva da fare, Claudio sta accudendo il cane perché adesso è l'ora della passeggiata e del rancio anche, per cui no, a questo momento siamo soli, e fanno molto, mi chiameranno anche a me, per cui tu sei entrato un po' tardio, perché noi ci siamo da presto, noi ci siamo almeno più di 2 ore in radio, anche 2 ore e mezzo buoni. Abbiamo fatto un questo con Gianfranco, con Tonino, con Manuele, insomma, ce l'avevamo un po' tutti, dai, i soliti, però tu sei arrivato un pochino tardi, Nico, vai. Sì, beh certo, guarda, poc'anzi c'era Gianni, anche lui in macchina, in Piazza dei Segni c'era lui con un portatile e io lo sentivo discretamente, per cui non vedo per quale motivo non dovrei ascoltare te dalla macchina da Piazza dei Segni. Sì, è una posizione alta, in una zona alta della città, per cui non penso di avere problemi nell'ascoltarti. Vabbè, quando sarà il momento, quando avrai di nuovo la macchina, vai, fai queste prove e magari possiamo chiacchierare ancora meglio. Vai. Io ci sono ancora, Sì, ho capito, beh, certo, ma se tu piano piano ti attrezzi e ti fai una stazione fissa a casa con tanto di alimentatore, anziché utilizzare batteria, eccetera, e con un'antenna anche più performante sarà sicuramente meglio, tanto più che adesso non si farà più nemmeno la concessione, ma non sarebbe stato quello il problema, anche se la concessione si sarebbe dovuta pagare ugualmente dal prossimo anno, perché quest'anno ormai l'abbiamo pagata, per cui no, lo Stato non ce ne restituisce soldi. Ma non è quello, perché non facciamo più povero nessuno per 12 euro l'anno, per cui però diciamo che sarebbe ancora meglio, soprattutto per ovviare al fatto che quando ci sarà QRM, allora sarà un po' difficoltoso ascoltarti, perché il QRM tante volte sale anche a 7, 8, anche 9, dipende dai giorni. Se piove ad esempio, poi non ne parliamo, se piove supera anche i 9, sicché a quel punto lì non potrei ascoltarti o Nico. Allora nella mia zona praticamente, nella zona dove sono io, allora per me perlomeno non ci saranno problemi di sicuro. Magari guardate che uscendo in quelle condizioni, con le medesime condizioni, c'è l'antennino eccetera, guardate che il problema possa esserci per qualcuno che è lì nella parte alta di Sassari, che lo sa. Vabbè, vedremo, dai. Tutto è bello provare, dico. Nicola, ascolti, doppio rum, cambio. Ma io qui in questa zona abito esattamente dal 1971. Fai un po' i conti, ci sono quasi 50 anni praticamente, 49 per l'esattezza. Da sempre, praticamente da quando mi sono sposato, subito dopo sono venuto ad abitare qua. E adesso conto di rimanerci sempre, anche perché la casa è di mia proprietà, pertanto non c'è motivo di spostarmi, ecco. Avanti Nico. Ehi, allora è proprio vicino a me. Tu pensa che la strada dove abito io ha lo sbocco proprio in via Palla di Carro, tanto per dirtene una, no? Sicché siamo più che vicini a quel punto lì, Nico. Ok, sì, e speriamo però che in quel periodo non ci sia più il virus in giro. Per così almeno saremo ancora più tranquilli. Certo, sì, ripeto, la strada dove abito io praticamente si collega poi con via Palla di Carro, perché è una parallela a via dei Punti e una che incrocia via Palla di Carro. Pertanto va benissimo. No, già si sta bene qui alle Punti, una zona tranquilla, non c'è problema, ci sono tutti i supermercati, non manca niente, se uno non vuole salire in città proprio per la spesa eccetera non ce n'è bisogno, perché qua anche da poco hanno fatto un supermercato per gli alimentari eccetera, la MD si chiama, ed è un bel negozio veramente. Infatti io da quando hanno fatto quel negozio lì, la spesa di solito noi la facciamo proprio quella che è in linea d'aria da dove abito io a questo grande negozio, saranno sì e no in proprio in linea d'aria, non arriva a 150 metri, forse anche di meno, in linea d'aria. Giulio, mi ascolti? Sì, lo so, certo, via Gabboni, la scuola lì che c'è, vicino, praticamente dove c'è la chiesa, dai, dove c'è la chiesa, siamo lì vicini, vicinissimi anche alla chiesa, dai. Giulio, attenzione. Sì Gianni, ti mando avanti Nicola subito. Sì, qui c'è il tram, chiamiamolo così, che poi non è il tram, è un filobus, un autobus anzi, per cui c'è tutta la. Fa tutto il percorso e sale proprio lì in via Palla di Carro. Addirittura c'è la fermata, più di una fermata in via Palla di Carro, sicché in caso di necessità che poi tu vieni a visitare tuo figlio, ti porta proprio praticamente davanti a casa sua, ecco, tutto lì o Nico. L'hai sentito a Gianni, Nicola? A Nicola. Ma c'è sempre questo che mette la portante tutte le volte che parla Gianni. Fai la bravo, cosa? Gianni, ti hanno messo la portante. Gianni, ti hanno messo la portante. Vabbè, se cosa vuoi che sia. Non so cosa dirti già. Avanti, Nicola. dico, quando stavamo parlando a Gianni hanno rimesso la portante, non so se l'hai ascoltato Gianni. E lui ha parlato, no, 9 più 15 la portante qua, ti puoi immaginare. Era una bella portante anche, non è poco. Ma diciamo che c'era ieri anche, c'era anche ieri, c'era, ogni tanto, soprattutto ce l'aveva con Gianni, con me e con Emanuele anche ieri, che ce l'avevamo tutti. E metteva la portante in tanto, un po' a tutti mi ha dato, dai, così è, vabbè, preghiamoci, avanti Nico. No, ma ti sentiva, Gianni ti ha risposto, guarda che ti sentiva, solo che quando poi stava parlando Gianni, è subentrata la portante, probabilmente per quello che non l'hai sentito. Gianni, riprendi. Ciao Giulio. Ciao, che ti mi ha salutato. Sì, vabbè, Gianni, lei, di nuovo la portante, no? Anzi, chi mi ha salutato, insieme alla portante, non ho capito che sì. Franco, sono Giulio, ciao, buonasera a tutti. Ciao Franco, ben ascoltato. Purtroppo c'è la portante ogni tanto, cosa ci vuoi fare, Franco? Visto c'è, cioè il pelo, il lupo cambia il pelo ma non il vizio, E cosa ci vuoi fare? Pazienza, purtroppo. Sono sempre esistiti questi qua. Ci dobbiamo portare appresso, non dico per sempre, ma finché non lo voglia loro. Tutto bene Giulio, comunque un abbraccio anche a Nicola, se mi ascolta un po' bacino, io ascolto un po' bacino, per me ha peggiorato nei miei confronti purtroppo, e anche a Gianni doppio rum. Avanti Giulio. Ok, sì Franco, sì, perché Nicola adesso ha messo un antennino e l'ha attaccato sulla caldaia, adesso te lo dirà lui. Comunque avanti Nicola per Franco, che sicuramente tu l'hai sentito. Avanti Nicola. Ti ho ascoltato un po' a livello QRM, ho capito che hai messo una turbo, così, una REM, una turbo, quindi un'antenna da macchina, dai, ecco. Penso che sia una base magnetica attaccata alla caldaia, però qua nella mia zona ti ascoltavo meglio dal terrazzo, diciamo, dalle parti alte. Vedi un po', dai, di metterti una bella antenna su, dai, così nessuno avrà problemi. Gianni, mi ascolti? Questo, Capo, anche qua comunque non è fortissima, però poi c'è questo innesco, questo fischio proprio per disturbare. Sì, è fatto di proposito proprio per quello che vuoi. E allora, Opla, hai visto quel modello che ti avevo mandato su WhatsApp? È un sistema abbastanza pratico da fare. Adesso appena potrò fare una scappatina verso Fusaro, compro del materiale e tento di farne una come quella, così, con quel stesso sistema o fra. Sì, ma ho visto che lo stub non è in corto, ho visto male. Ma diciamo che quello non l'hanno fatto vedere in maniera chiara, però quello sicuramente, perché se tu guardi lo schema elettrico, è sempre in corto, devi seguire lo schema elettrico. No, perché guardandolo sembra un taglio netto, cioè non ha fatto, strano che non faccia vedere una saldatura, niente, proprio non l'ha fatta vedere per niente. Io ho ordinato invece una scatoletta dalla Cina, quella per verificare le antenne, dai, quella analizzata le antenne, vediamo un po' cosa arriva, magari lo proviamo. Ok, beh certo, sì, l'avevo visto da un radioamatore che ha fatto un video, l'ho seguito e ho visto che è una cosa che funziona, quell'analizzatore che mi avevi fatto, che mi avevi mandato tu, sì, funziona, senz'altro. Vabbè, a vedere, dai, comunque. No, ma io dico che vuole per forza cortocircuitato fra, se no non ci sarebbe la chiusura, non ci sarebbe, senz'altro vuole cortocircuitato, non lo fa vedere chiaramente, però nello schema, se tu guardi lo schema già si capisce. Io poi l'ho guardato, l'ho visionato proprio al computer, no? L'ho visionato in modo da vederlo in grande, anziché vedere il telefonino, perché l'avevo scoperto al telefonino, però poi ho acceso il computer e l'ho cercato lì e l'ho trovato, e devo dire che va bene, insomma, molto pratico, senza tanti giri e giretti eccetera eccetera. Va bene, facciamo girare, avanti Nico. Ok, ecco, sicuramente anche a me mi chiamano fra, saranno molto, perché sta arrivando l'ora della cena, per cui non è che ho molto tempo anch'io. Sì, capito fra, io ci provo, e poi con l'RG58, faccio questo con l'RG58, magari non ho il testo per l'impegno.